con il fumettista Lelio Bonaccorso, che insieme a Marco Rizzo ha realizzato il libro Salvezza, che sarà presentato a Roma al Festival in Divenire il prossimo 27 settembre. Lelio, ben trovato. Sì, eccoci, vedo persona, ti va, adesso vi sento. Buongiorno. Buongiorno. Per chi non conoscesse la tua opera, intanto ci racconti del tuo lavoro? Sì, allora, Salvezza, che è questo fumetto, un reportage giornalistico per fumetti, edito da Feltrinelli, che ho realizzato insieme al giornalista e sceneggiatore dei fumetti Marco Rizzo, racconta le 3 settimane che io e Marco abbiamo passato a bordo dell'Aquarius, la nave delle ONG SOS Mediterranee, ed è la testimonianza, insomma, di quello che noi abbiamo visto, perciò le storie di chi viene salvato, le storie di chi salva, la nostra esperienza, ma anche una raccolta di dati rispetto a quello che è il fenomeno della migrazione di questi anni. Com'era nato tutto, Lelio? Allora, è nato da una richiesta che ci ha fatto Tito Faraci, il curatore della collana appunto di Feltrinelli Comics, perché Feltrinelli quest'anno praticamente ha deciso di aprirsi anche al mondo del fumetto e ci ha chiesto di proporre un'idea. Allora Marco ha subito detto: perché non ci mandate a bordo di una ONG, a bordo di una nave, per vedere quello che succede da quella parte del mare? E sai, la proposta, quella magari più improbabile, che pensi che non venga accettata. Invece Feltrinelli ha sposato appieno, diciamo, questo progetto, ci ha finanziato anche il viaggio e poi insomma è uscito fuori Salvezza, che ci ha portato poi a parlare tanto in giro di questa tematica. Quanto tempo siete stati imbarcati? Esattamente 17 giorni, 17-19, comunque circa 3 settimane. Parliamo del periodo, per capirci, da novembre scorso, un mese prima che scoppiasse poi il caso Aquarius. Non potevamo immaginare. Il fumetto uscì il 3 maggio, il mese dopo insomma ci fu il caso che tutti conosciamo, ma noi ci eravamo imbarcati il novembre precedente. Scusatemi, eccoci. Allora, ti ripeto la domanda: in quel lasso di tempo ci sono state missioni di soccorso? Sì, ci sono stati esattamente 4 rescue per un totale di circa 1 migliaio di persone. Un quinto rescue, purtroppo, una volta che l'acquario sarà stato contattato dalla Guardia Costiera, abbiamo dovuto rinunciare perché sono arrivata la Guardia Costiera libica e se ne sono occupati loro. Veramente tutte queste cose che vi sto raccontando sono testimoniate e raccontate nel libro in maniera dettagliata. Lelio, che impressione hai ricavato da questa esperienza? Allora, chiaramente, come potete immaginare, non è qualcosa di... è un'esperienza molto, molto pesante, più pesante di quello che io stesso immaginavo. La prima cosa che ti posso dire è che c'è veramente un filtro tra di noi, che siamo da questa parte del muro, come dico io, e quello che sta accadendo dove passi da casa nostra. Perché in Libia si sta verificando un vero e proprio olocausto, e non lo dico per usare un eufemismo, ma nel vero senso del termine. E credo che la gente sappia poco di quello che accade, sa solamente, diciamo, una minima parte, ma in realtà c'è molto di più, è molto più terribile di quello che noi stessi immaginiamo. Questo libro lo state portando in giro per delle presentazioni, e che reazioni sta suscitando? Allora, noi siamo, fortunatamente, devo dire, il libro sta andando molto bene, già la terza ristampa nello scorso di qualche mese, sintomo che la gente è molto interessata e vuole sapere quello che... avere più informazioni, perché Salvezza non è un libro che è nato per convincere qualcuno, ma semplicemente per portarsi delle informazioni di prima mano. Gli incontri che abbiamo fatto, ormai credo più di una trentina, continuiamo adesso, il prossimo appunto sarà poi a Roma, sono molto partecipati e la gente è curiosa e ci chiede anche quelle domande che possono essere apparentemente banali, ma non lo sono, e che è giusto insomma a cui si dia una risposta. Lelio, quante tavole hai realizzato per il libro e poi come lavorate con Marco Rizzo? Allora, il libro è composto da, se non erro, 124-125 pagine, se non ricordo bene, che sono realizzate, diciamo, ad acquerello, però con tecniche miste in base a quello che raccontiamo. Sì. Allora, con Marco, di solito, lui si occupa della sceneggiatura, io dei disegni. In questo caso, però, c'è stata, vista la situazione particolare, noi eravamo a bordo, lui si è occupato delle interviste, io mi occupavo di recuperare materiale, oltre foto, video, ma soprattutto disegni, perciò ritratti alla gente che era a bordo. Ed è stato anche un modo per entrare in confidenza con loro, e così abbiamo potuto sapere, per esempio, nome di trafficanti, come loro riescono a trovare soldi per partire, quello che succede in Libia e quello che succede nei loro paesi. E sicuramente in questo lavoro con Marco, rispetto ad altri, diciamo che i nostri ruoli si sono mescolati, nel senso che ci siamo cominciato a Vicenza, chiaramente dovete immaginare che questa è un'esperienza molto veramente forte, e la salvezza è la sintesi delle nostre due esperienze, per cui c'è questa forte, diciamo, contaminazione, diciamo, reciproca. E, non lo so, per me è stata un'esperienza particolare. Io quello che vi posso dire è che i lettori rimangono molto colpiti da questo libro, lo leggono anche più volte perché dicono che ne hanno necessità. Che idea ti sei fatto rispetto alle persone che nel Mediterraneo prestano soccorso a chi si trova in difficoltà? Penso che siano tra le migliori persone che abbia mai conosciuto. Perché immaginate, per esempio, sapete, insomma, tutte le chiacchiere che si fanno al giorno d'oggi, no? Sì, sì. Quello che si dice. Pensate che, per esempio, a bordo abbiamo conosciuto un ingegnere della NASA, americano, texano, era in ferie. E anziché magari spendere il proprio, diciamo, stipendio, no? E andasse a farsi un bagno ai Caraibi, per dire, lui era a bordo dell'Aquarius. Ora, lui della NASA riprogettava e progettava gli scarichi dei bagni dello shuttle, e sull'Aquarius invece era una cosa simpatica, lui si occupava di aggiustare e di migliorare gli scarichi dei bagni chimici, no? A bordo dell'Aquarius. Mm-hmm. Questo per dire il livello della gente che fa questo, il cuore che ci mette. E io ho visto anche le lacrime sui volti di queste persone quando non è stato possibile aiutare, diciamo, questi che prima di essere migranti sono fratelli, non ce lo dimentichiamo. Lelio, prima hai parlato di filtro, ecco, in rapporto a quello che ci dicono i mezzi di informazione, l'impressione è che una parte determinante dell'atteggiamento, del sentire comune verso il fenomeno migratorio dipende proprio da loro, che stanno facendo il buono e il cattivo tempo. Diciamo che secondo me ci sono varie diciamo, situazioni, nel senso che c'è sicuramente una propaganda che sta cercando di inoculare nella testa della gente delle notizie assolutamente false. Sì. Per esempio dire che l'ONG è un bene che non ci siano più o che sono vice scafisti, trovo che sia una cosa assolutamente vergognosa. È come togliere le ambulanze dalle strade e la gente che incidenti muore per strada. Anche perché io ho visto tutte le fasi, anche le comunicazioni radio con Roma, perché noi avevamo accesso anche al ponte del comandante, e vi posso dire che l'Aquarius ha agito sempre in collaborazione con la Guardia Costiera Italiana, perciò è chiaro che non può essere un atteggiamento clandestino questo, anzi nella massima legalità e collaborazione. Sì. E la Guardia Costiera Italiana questo lo sa perfettamente. Quello che vi posso dire è che secondo me ci sono anche situazioni in cui la gente racconta fatti che a loro volta sono stati raccontati, perciò si perde qualcosa strada facendo. Sì. Ecco, la nostra necessità era quella di andare a vedere con i nostri occhi e raccontare quello che abbiamo visto. Sì. Io vi posso dare garanzie su quello che c'è nel libro. Ovviamente ci metto la mia faccia, ci mette la faccia anche Marco. Vi posso garantire che è quello, anche perché noi abbiamo portato anche dei materiali, oltre, insomma, che il fumetto, anche video, audio, insomma, che sono reperibili comunque sulla rete. Ecco, proprio a questo proposito, ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Allora, potete andare dunque sulla pagina di Salvezza, cercate Salvezza Feltrinelli, c'è il blog dove noi abbiamo caricato vario materiale, diciamo, extra, con, diciamo, contenuti, anche perché noi abbiamo fatto una sorta di diario quando eravamo a bordo e anche dopo di quello che accade. E se andate anche su YouTube e cercate Salvezza Feltrinelli, troverete vari video, tra cui una, diciamo, intervista nostra, è un video che abbiamo creato apposta, con le immagini montate che abbiamo ripreso a bordo dell'Aquarius. Questo per farvi capire un po' il tenore di quello che noi abbiamo vissuto. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento a Roma al Festival in Divenire il prossimo 27 settembre con Salvezza, autori Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo. Lelio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, mi permetto di dire solamente una cosa, che all'incontro sì. Parteciperà anche Stefano Bertoldi, che è un membro del DSOS Mediterraneo, è un ragazzo dunque che fa l'operazione, sarà dunque possibile chiedere anche a lui un attimino quello che è, come si svolgono queste operazioni. Bene, grazie Lelio. Un abbraccio, buona giornata, a presto.